Blog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Mi rendo conto che nelle preoccupazioni del nostro paese, individuali e collettive, in questo momento l'aspetto economico è primario. In giorno di busta paga tutti staranno a guardare, a vedere, a osservare, a fare i conti, cominceranno a dare ragione in maniera sempre più concreta di un momento non certo felice. Però non vorrei dimenticare, proprio perché tutti i giorni io passo per Piazza della Repubblica e puntualmente ogni tanto Piazza della Repubblica è piena di camionette militari, di soldati in parata, di insegne, di fiori, di bandiere, di autorità, di telecamere televisive. Perché? Perché c'è un funerale di Stato. Ieri c'è stato il funerale di Stato del sergente Michele Silvestri, che è stato ucciso sabato durante un attacco con dei colpi di mortaio in Afghanistan. Una sua collega è gravemente ferita, la caporalmaggiore Monica Graziana Contraffatto. Leggo su una pagina di ieri di Repubblica che solo in Afghanistan in 10 anni 50 morti, soldati italiani sono morti in quella che era partita per una missione di pace. Oggi vorrei fare un punto serenamente, per quanto è possibile, ma visto che non è più un argomento che interessa tanto alle cronache, sul fatto che noi siamo presenti comunque in vari teatri di guerra, teatri di pace, ma teatri effettivamente di guerra, in cui i soldati muoiono. Ci se ne rende conto meno quando non è precipua l'attenzione dei media nei confronti di quello che accade in quelle terre, in quelle zone. Ci se ne accorge forse un po' più quando, come ho detto ieri, in città come Roma si attraversa un funerale di Stato, si vedono persone che piangono, si vedono truppe schierate e si capisce che abbiamo dei soldati che muoiono in guerra. 800 24 00 24, questo è l'argomento del giorno. Intanto vi presento subito l'ospite, che è un collega che spesso ci ha seguito in queste riflessioni, è Gianandrea Gagliani. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno a te e agli ascoltatori. È un giornalista, dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa appunto di analisi storico-strategiche e studio dei conflitti internazionali, collaboratore del Sole 24 Ore. Recentemente tu sei stato proprio in Afghanistan, Gianandrea. Beh, io qualche mese fa sono stato proprio nella FOB ICE, no? nella base dove c'è stato l'ultimo attacco che ha provocato l'ultimo dei 50 caduti italiani. E vale la pena sottolineare che questa zona, quindi i distretti orientali della provincia di Farah, dove è morto il sergente Silvestri, sono i più caldi di tutto il settore italiano. Sono zone ad altissima concentrazione di coltivazioni di oppio, e proprio in questo momento stiamo per cominciare il raccolto, e quindi insomma è un momento delicato anche per i narcotrafficanti da quelle parti che affiancano i talebani. E per indicare la pericolosità di quell'area, basti dire che nell'ultimo anno e mezzo, da quando i nostri militari si sono rischierati anche là, a settembre 2010, le truppe italiane in Afghanistan hanno avuto 12 caduti per il fuoco nemico, per il fuoco dei talebani. Di questi 12, ben 9 sono morti in questa zona. Quindi questo dimostra chiaramente come la situazione lì sia difficile, anche perché il terreno è difficile, è complicato. La valle del Gulistan appunto è una valle, dalle montagne circostanti i nostri fortini, i nostri avamposti sono un bersaglio abbastanza facile per i talebani, anche se abbiamo mezzi, armi e inclusi gli elicotteri per rispondere al fuoco, come abbiamo fatto qualche giorno fa. Senti Gianandrea, è ancora in uso questa sorta di eufemismo, questa cosmesi lessicale che chiamiamo missioni di pace? Ah, certo, no, sono tutte missioni di pace. Noi non chiamiamo mai guerra nessuna operazione, mentre invece questo probabilmente cambierebbe un po' non tanto la realtà, che è quella, puoi chiamarla come vuoi ma rimane quella, quanto la nostra percezione, il fatto che questa guerra afghana è una guerra a bassa intensità, una guerra che diciamolo, non provoca tantissimi morti. In 10 anni i caduti alleati sono stati 2.950, di cui 2/3 americani. Insomma, numeri che sono gestibili sul piano delle perdite per le più grandi. Però è una guerra a tutti gli effetti, perché però non chiamarla guerra? Guarda, io credo che se vogliamo fare un paragone storico, questo tipo di guerra sia paragonabile alle guerre che sostenevamo noi europei per decenni durante l'epoca coloniale, nelle quali alcuni reparti militari non troppo nutriti si spingevano in zone difficili da controllare, dove erano in corso ribellioni di tipo etnico, tribale o religioso, e che per tanti anni i nostri militari restavano là cercando di sedare queste rivolte. Non abbiamo più la preparazione sociale forse a gestire guerre così. Allora, a ricordarli, c'erano le copertine della Domenica del Corriere di Beltram. Oggi in realtà i mezzi di informazione ci sono, una percezione c'è di quello che sta accadendo. Beh, però credo che ci sia una capacità inferiore della società di accettare i caduti. Adesso non vorrei sembrare cinico, però 50 caduti in 10 anni di operazioni in Afghanistan non sono in termini militari un prezzo altissimo da pagare. Chiaro, lo sono, sì, per la percezione che noi abbiamo del fatto che i nostri soldati non possano o non debbano morire in una guerra che peraltro non chiamiamo neanche guerra. E quindi credo che sia più l'impatto della percezione della realtà che non l'impatto bellico reale a determinare anche poi delle ripercussioni politiche su chi deve decidere se restare o meno o se andare o meno a combattere quella guerra. Allora, chiediamo intanto ai nostri ascoltatori di darci un segnale della loro percezione. Fra l'infinità di problemi di tipo contingente, tipo personale, di tipo finanziario, economico, sociale, avete la percezione che siamo anche comunque in guerra, anche se è una guerra non eccessivamente cruenta, ma una guerra che dà i suoi morti, sono morti che pesano, non che questo debba particolarmente cambiare le abitudini di ognuno, però è qualcosa che accade, qualcosa che succede, è un tassello in più che dovremmo dare alla nostra percezione e concezione del momento che stiamo vivendo. 800 24 00 24, abbiamo Camillo al telefono, buongiorno. Ah no, scusi, Carmelo è padre di un soldato italiano appena tornato dall'Afghanistan, o sbaglio? Sì, sono in linea? Sì, certo. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca. Lei si chiama come mio figlio Gianluca, che è rientrato ieri da Herat. È rientrato praticamente dalla sua seconda missione, da novembre a marzo. Ecco, la prima volta che partì per l'Afghanistan, devo essere molto sincero perché sto parlando di mio figlio, ero disperato, perché quando ci siamo salutati non ho fatto altro che piangere tutto il pomeriggio, e il padre praticamente, che sono io, mi sentivo una nullità, perché a un certo punto mi sono chiesto perché mio figlio deve fare questo. Ma suo figlio fa il militare, l'ha scelto mio lui. Mio figlio, sì, però è diventato incursore nel 2009, prima era un militare, ma in forma molto più tranquilla. Però è una scelta, mi sembra una scelta determinata, volontaria. Penso sì, perché poi le cose arrivano per determinate circostanze, perché si conoscono anche dei colleghi che l'hanno fatto, eccetera. Cioè, uno non è che fa l'incursore, che è un training abbastanza duro per stare dietro una scrivania. Allora, per diventare incursore su 32 ce l'hanno fatto solo in 8. Quindi pensi se era motivato. Allora sì, va bene, un conto fare un anno di preparazione, addirittura poi sono diventati due. Poi quando è arrivato il momento di partire, veramente per tutta la famiglia è stata devastante, perché fin quando non arriva il momento di salutarci è chiaro che poi quando è lì, adesso fortunatamente c'è anche il mezzo Skype, che di tanto in tanto ci colleghiamo, ci vediamo, vi vedete con Skype. Però sì. Riesce a descrivere agli ascoltatori la sensazione di una famiglia italiana che, oltre al problema, immagino, del mutuo, delle tasse, dell'infinità di problemi che tutti abbiamo, anche si sente famiglia di un soldato che è in guerra, a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Poi, lei è un figlio che sta facendo la guerra, non è che è un figlio che è lì per sport. Perché questa volta purtroppo è toccato a Michele Silvestri, e poteva benissimo toccare a mio figlio. Io qua, la prima volta che mio figlio partì, pensavo di non rivederlo più, con tutta sincerità. ha detto cosa ho fatto di male per avere un figlio che sta partendo per un... Ma suo figlio le racconta, l'ha mai raccontato di missioni, sì, di guerra? Sì, poi ha portato anche una documentazione visiva, perché quando facevano le azioni in Afghanistan da mattina molto presto, che entravano nelle abitazioni dei talebani in cerca di armi, esplosivi, eccetera, mi commentava quello che facevano, facevano anche una sorta di censimento, prendevano le impronte digitali con il sistema che usano anche per i passaporti, no? E comunque alla fine, quando è tornato, ha detto: ma secondo me è tutta una cosa inutile. Non hai mai parlato di scontri a fuoco, di momenti pericolosi? Sì, sicuramente, però mio figlio Gianluca è molto riservato. È già anche tanto... poi esiste una regola precisa che un soldato quando è operativo non deve raccontare esattamente quello che succede. Infatti, quando ci colleghiamo con Skype, si dicono sempre le stesse cose: come sta, il tempo, nevicato. Ma questo fa parte della regola basilare, un soldato in zona d'operazione non deve dare informazioni. Sentiamo una cosa, che lì sono indietro di almeno 100 anni, quindi pretendere di portare civiltà, regole, quando noi in Italia facciamo fatica anche ad averle, perché spesso il giusto diventa solo l'utile del più forte in Italia, figuriamoci all'estero. Quindi no? È ancora più difficile. Sentiamo un attimo Paolo. Paolo, buongiorno. Paolo. Buongiorno. Lei è un reduce di Afghanistan. Ma guardi, mi sono definito in questo modo per voler dare una sfumatura emotiva a quello che è stato il mio rapporto con l'Afghanistan, perché è una terra bellissima. La popolazione è spesso generosa, anche se purtroppo a volte disposta in modo ostile nei nostri confronti. Lei cosa faceva e quando c'è andato? Guardi, io sono rientrato dall'Afghanistan nel 2010 e sono stato un militare impiegato nell'ambito dell'Unione Europea. Ora continuo a distanza da quegli eventi come formatore per il personale che sarà impiegato in Afghanistan. Sono un ufficiale dei carabinieri e ho pensato di intervenire modestamente e da titolo personale per dare un punto di vista sulla situazione giuridica dell'Afghanistan. Ce lo dia allora, ci interessa. Guardi, molto semplicemente, noi abbiamo il mandato di sviluppare decisioni che la comunità internazionale ha preso nel 2004 e che quindi hanno avuto una ricaduta sulla Costituzione adottata nel 2004. Abbiamo quindi una Repubblica Islamica dell'Afghanistan con una carta costituzionale che non solo è incompatibile con molti aspetti della vita sociale di quel paese, ma che è una carta costituzionale sostanzialmente regressiva rispetto alle carte costituzionali che sono state adottate nel corso della storia recente di questo paese. Sentiamo Gaiani. Gaiani, cosa dici rispetto a quello che dice il nostro istruttore carabiniere in Afghanistan, un suo punto di vista? Sì, no, io credo che l'aspetto giuridico sia importante. Lui credo che abbia partecipato alla missione dell'Unione Europea di formazione e di addestramento della polizia afghana, che è una missione difficile perché devi di fatto addestrare delle reclute, dei poliziotti che non sempre hanno il senso del loro dovere. No, ma spesso sono analfabeti addirittura, quindi io ho visto l'addestramento fatto alla polizia afghana non dalla missione della Unione Europea ma quella della NATO, e spesso ha a che fare con dei sottufficiali che sono analfabeti, quindi proviamo a immaginare un poliziotto che ci ferma per strada e che non conosce il codice perché non sa leggere o che non sa leggere un nostro documento. Insomma, i problemi giuridici ci sono, problemi costituzionali, e stanno venendo tutti i nodi al pettine adesso, perché Karzai tra l'altro è molto pressato, il presidente afghano, dai gruppi più reazionari, più conservatori islamisti del paese, che appunto lo accusano di aver dato al paese delle leggi troppo filo-occidentali, quindi è un dibattito quello molto acceso. Però sul piano pratico, concreto, noi stiamo preparandoci a lasciare l'Afghanistan fra 2 anni, lasciando il paese in mano a forze armate e di polizia che stiamo cercando di addestrare, ma che hanno problemi fondamentalmente legati radicali. Certo. Senti, Gianandrea, volevo introdurre un secondo ospite che finora ci ha ascoltato, che ci permetterà di allargare un pochino anche il nostro orizzonte. Pierluca Puccipoppi, buongiorno. buongiorno. Altro nostro ospite, che sempre ci ha seguito in approfondimenti di questo tipo, è autore del libro Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, a Liberty Edizioni, con cui abbiamo parlato spesso della situazione libica, è il corrispondente in Italia della settimanale francese Valeur Actuel. Pierluca, vediamo di rifare un punto. Innanzitutto, il tuo primo terreno di osservazione. Cosa sta accadendo in Libia? Abbiamo parlato di guerra in Libia, di nostro intervento in Libia, poi a un certo punto, dopo quei filmati su YouTube di Gheddafi ucciso, massacrato, linciato dalla folla, deturpato, stuprato, fatto di tutto, non si è più parlato della Libia. Invece cosa sta accadendo? Beh, e soprattutto noi che parte abbiamo? La guerra non è veramente finita in Libia. Fra tribù, fra realtà etniche, si continua in certe parti a combattere. Non solo, si sono svuotati gli arsenali libici, le armi libiche stanno inondando l'Africa subsahariana, armi leggere per esempio. Le stanno esportando. Dappertutto. E questo è un problema che si vede molto sulla stampa estera, soprattutto francese, che è sempre molto, molto attenta a quella zona, che è una loro zona di interesse tradizionale. Dicono qui le armi libiche stanno inondando Mali, Mauritania, eccetera. Quindi aveva soltanto armi convenzionali Gheddafi, non aveva nulla di particolare. Non aveva nulla, perché lui abbandonò il suo programma nucleare e chimico per paura di un intervento americano. Dopo l'intervento americano in Iraq, lui tramite gli inglesi abbandonò tutto. E queste armi libiche da dove venivano? Chi le ha vendute? Noi italiane e poi soprattutto sovietiche. Lui è stato un cliente di armamenti dell'Unione Sovietica per tutti gli anni, dalla seconda metà degli anni 70 fino agli anni 80. I sovietici erano molto felici di armare Gheddafi. Che era anche un fattore. Chi è che se le sta vendendo adesso, diciamo, l'esercito ufficiale costituito? Non si sa neanche bene questo, quale esercito ufficiale poi in fondo, è tutto molto frammentato, il governo non si sa bene che cosa governi, a parte naturalmente questa è stata un'amministrazione piuttosto surreale, è durata 40 anni e quando un economista cercava di capire qualcosa delle cifre, trovava cifre solo per il settore bancario e il settore petrolifero, tutto il resto non si capiva nulla. Quindi un'organizzazione tribale che è rimasta la sua struttura, sì, tribale comunque. È rimasta così, tant'è vero che il leader attuale, anche se formalmente pro tempore, è Mustafa Abdel Jalil, che era il ministro della giustizia di Gheddafi, e in quanto giudice fu lui a condannare a morte le infermiere bulgare. Ecco, tra un istante ti chiederò poi qual è il ruolo dell'Occidente, soprattutto noi cosa stiamo facendo in questa situazione, però ho al telefono, sì, Gianni, che è il padre di un ragazzo che è appena rientrato. Gianni, da dove? Dal Gulistan, buongiorno. Buongiorno. E niente, io ho sentito la trasmissione stamattina, stavo ascoltando, quindi ho pensato di intervenire, appunto perché vorrei solamente porre una domanda, guardi, ai nostri politici, ma che ci stiamo a fare? Qua non ho politici, okay, però, no, quindi non posso dare questa domanda, risposta. Per via etere, in pratica, ecco, cioè, a che serve la nostra presenza? Di questi hanno cacciato i russi dopo 10 anni, in pratica, di occupazione, quindi... Il Gulistan lo chiamano il Far West d'Oriente. Suo figlio gli racconta cosa accade lì? Mi ha parlato qualcosa, mi ha detto, anche perché per parlare con lui devi cavarci le parole dalla bocca, giusto? Quant'è che non lo vede? No, è ritornato il 15 febbraio e mi ha parlato appunto l'altro giorno quando è successo il fatto di quel ragazzo lì, che anche quando c'è stato lui il giorno di Natale hanno ricevuto gli attacchi, hanno ricevuto... da parte dei talebani, questi mettevano i mortai da 81 sulle montagne e lanciavano razzi sulla Fobais, dove è successo l'incidente, quel tragico incidente l'altro giorno. Dove è morto Michele Silvestri, certo. Sì, dove è morto il sergente Silvestri, sì. Loro sono per San Marco, il battaglione dove fa parte mio figlio, in pratica. Ma c'è qualche racconto nei margini del possibile di suo figlio che ci può dare un'idea più esatta del clima? Racconto che per 2 giorni hanno subito questi attacchi, quindi questi che facevano, che fanno in pratica? Piazzano i mortai sulle montagne intorno circostanti, sparano, poi cambiano subito posizione. Ecco la tattica qual è, quella della guerriglia in pratica, quella di colpire e non essere colpiti. Poi si alzano gli elicotteri, vanno a scovarli, però loro non ci sono già più. Ecco, a lei faccio la domanda che ho fatto anche al suo collega Carmelo. Lei ha la sensazione di appartenere a una famiglia italiana che ha una situazione abbastanza diversa e singolare, difficilmente raccontabile. Voi, a differenza del vostro vicino di casa, del suo collega d'ufficio, delle persone che incontra la partita, avete un figlio che la mattina esce con un fucile d'assalto, rischia di essere colpito da una bomba da mortaio, che fa il soldato a tutti gli effetti in zona di guerra. Sì, sì. Sì, sì, è questo quello che abbiamo passato sia io che mia moglie in quei sei mesi, appunto quando il ragazzo è stato lì. Suo figlio perché è partito? Una sua passione, un suo desiderio? Mio figlio ha fatto la scuola nautica, poi chiaramente noi siamo del sud, noi sono di Bari, vedendo che qui chiaramente scarseggia il lavoro, ha pensato di arruolarsi in Marina e poi è stato inquadrato nei fucilieri di Marina, nel battaglione San Marco. Quindi obiettivamente è una carriera molto rischiosa, ma il molto soldato di professione sì, che richiede molto addestramento. Loro hanno fatto addestramento per quasi 4 anni, però è un buon lavoro alla fine da un punto di vista, diciamo, sì, remunerativo. Sarebbe un buon lavoro se chiaramente facessimo delle missioni che se non si morisse, appunto, cioè andare lì a fare che cosa? Salvaguardare che cosa? L'America, gli Stati Uniti. Noi siamo lì per volontà degli Stati Uniti, non ce lo dimentichiamo, noi non contiamo nulla. Anzi, mi scusi, ma vorrei lanciare non un appello, ma un ricordo per quei due fucilieri che sono lì detenuti in India, quei sì, due ragazzi. Beh, non dimentichiamoci di quei assolutamente, due ragazzi. Sì, non ci dimentichiamo, ma teniamoci stretti adesso a quello che è l'argomento della trasmissione. La trasmissione aveva come scopo di ricordare che esiste una fetta di italiani che sono impegnati in azioni di guerra, una fetta di famiglie italiane che hanno questa situazione singolare, non pubblicizzata, non molto conosciuta, di avere un figlio che comunque per sua scelta volontaria assolutamente, nessuno ce li manda per forza, comunque è in zona di guerra e rischia la vita e combatte. Melog. La realtà condivisa. Un amore per la divisa che Silvia ha provato a spiegare anche alla bambina proprio ai primi di agosto durante l'ultima licenza. L'ultimo giorno è stato duro perché come mi ha visto rindossare la divisa ha capito che c'era qualcosa che non andava. Quando stavo per partire ha cominciato a piangere e mi ha detto mamma no, non andare. Io ho cercato di spiegarle che quello che faccio qui è importante e che spero che un giorno veramente sia orgogliosa di sua mamma. Una passione per l'esercito italiano che il tenente Guberti coltiva fin da adolescente. Questo è un servizio preso dalla televisione. Non vogliatemi se non cito sempre la fonte, ma a volte prendiamo da YouTube, ci serve un commento sonoro. È una madre, non sempre mi viene a mente di fermarmi da dove è stato preso. Infatti chiedo venia, perché so molte volte i colleghi si offendono. Questa è una madre militare che lascia una figlia e va a fare il suo lavoro. Devo dire che il senso di questa trasmissione è semplicemente per ricordare che esiste questa realtà. Non è una trasmissione che deve fare apologie o deve fare nessun tipo di presa di posizione. Per questo molte volte mi meraviglio per quello che individuo come livello più basso della partecipazione del pubblico, che è l'SMS. Negli SMS leggo veramente una becera partecipazione a questo programma che non fa onore agli altri ascoltatori, in realtà portano spessissimo contributi molto importanti anche per noi. Io riesco a ricostruire brandelli della realtà ascoltando le voci degli ascoltatori, molte volte mi abbandono proprio alla deriva delle risposte che daranno il pubblico senza preoccuparmi anche di raccogliere io stesso le testimonianze, e vedo che riusciamo a dare un'idea, un spaccato del paese molto, molto calzante rispetto alla realtà. Mi scrive un SMS un signore, poi non sapendo che scrivendo lasciano il loro numero di telefono, quindi potrei chiamarlo in questo momento e chiedergli ragione di quello che scrive. Ma sti teroni, nessuno li obbliga a fare militare, è un lavoro come un altro. E un altro signore scrive: ma quali azioni di guerra? La maggior parte è morta in incidenti, altro che funerali di Stato. I nostri poveri carabinieri ammazzati in Italia tutti i giorni, vergogna. Di cosa vergogna? Di raccontare una realtà. Faremo una trasmissione anche su carabinieri ammazzati tutti i giorni. Non ci sono morti di serie A e di serie B. Mi piace considerare il fatto che in Italia esiste anche questa realtà. Di famiglie che hanno figli in guerra per loro scelta. Ma che è una guerra vera, una guerra dove si muore. Si può morire in un incidente stradale, ma in zona di guerra, perché le strade sono disastrate, sono accidentate, perché non sono le nostre strade. O si può morire anche per un colpo di mortaio. Pierluca Puccipoppi, che si è molto interessato dell'area libica, però anche in generale sta scrivendo un libro sull'Iran, mi pare. Sì. Hai qualcosa da aggiungere su queste due telefonate che commentavamo prima insieme? Beh, un signore diceva: che cosa stiamo facendo lì? È vero che l'Italia non ha interessi diretti in Asia centrale, tranne un interesse generico alla stabilità dell'area, di modo che non diventi esportatrice di instabilità, come è stata parzialmente sotto il regime talebano. È vero, quando si chiede che cosa ci stiamo a fare, è vero, secondo i nostri interessi nazionali non dovremmo esserci. Però teniamo una posizione. Sì, ci siamo, perché il nostro interesse, in questo caso indiretto, ma predominante, è quello dell'Alleanza Atlantica. Cioè, andiamo perché siamo alleati degli americani, per la NATO, e insomma l'Italia, che è una media potenza, è comunque inserita nell'alleanza militare più potente del pianeta. Chi non vorrebbe esserci? E per questo anche l'Italia veniva chiamata la Bulgaria della NATO negli anni precedenti. Qualunque cosa dicesse la NATO, a noi andava bene, e grazie. E certo, perché è un valore di sicurezza enorme, mentre la Francia, diverse velleità di grande potenza, può permettersi di fare una politica anche semi-indipendente, uscire dall'alleanza nel 66 con De Gaulle, tranne poi rientrarvi con Sarkozy. Beh, noi diciamo... Sulla gestione specifica dell'Afghanistan, i russi, a differenza come stiamo facendo noi parlo come Alleanza Atlantica, come si comportavano? Ma i russi alla fine militarmente l'avevano praticamente vinta la guerra di Afghanistan, se ne vanno a fine anni... Però l'hanno persa. L'hanno persa, ovviamente politicamente. Qui ha ragione Gaiani quando parla di un parallelo con le guerre coloniali. I russi in Afghanistan è piuttosto simile ai francesi in Algeria, che militarmente effettivamente avevano quasi risolto, praticamente risolto, la ribellione. Se ne vanno per ragioni politiche, che ovviamente sono preponderanti, così come i sovietici. Ma i sovietici alla fine avevano capito, si erano adattati alla guerra di guerriglia e controllavano semplicemente i centri urbani e gli assi stradali nelle valli. Il resto chi se ne importa? E così, cioè, si coltivavano oppio, erano fatti loro. Poco importa. Non c'era una lettura etica della presenza militare in quei paesi. No. Gianandrea Gaiani, ricordo che è un giornalista che dirige il mensile web analisidifesa.it e collabora anche con il Sole 24 Ore. Cosa ne dici anche te del senso del pubblico dissidente che dice: ma state facendo delle apologie, in fondo che ce ne importa, sono pochi numeri? Però è una realtà che non si può fare a meno di considerare, almeno ogni tanto, nelle nostre osservazioni. Anzi, io credo che abbia un grande merito la tua iniziativa di parlare di questo oggi, perché purtroppo della missione in Afghanistan, anche perché politicamente è scomoda, perché proprio la domanda cosa stiamo a fare lì, pochi riescono a dare delle risposte, pochi a livello politico, delle risposte che siano poi percepibili, tangibili per l'opinione pubblica, e se ne parla poco, e purtroppo se ne parla quasi sempre in occasione di un caduto, quando la domanda anche: ma perché stiamo lì, veniamo a casa che forse è meglio, viene anche più facile da porre, insomma, di fronte al caduto. Io poi credo che ci siano anche valutazioni che vanno fatte oggi in maniera più critica, nel senso che questa guerra è cambiata. È vero che i sovietici puntavano al controllo delle città e dei grandi assi stradali, ma i sovietici perché si sono ritirati? Per la stessa ragione per la quale ci ritireremo anche noi, perché l'Afghanistan, con una guerriglia, un territorio impossibile da controllare tutto, anche solo perché tu prima, Gianluca, ricordavi, è vero che su 50 caduti italiani 18 sono morti per incidenti o per malattie, ma quelli morti in incidenti sono morti spesso perché avere un incidente in Afghanistan è semplicissimo. Le strade, io ho girato tanto sopra i mezzi Lince dei nostri soldati per le strade afghane, sono strade che non ci andresti con un mulo, quindi fa parte della guerra, morire per la guerra, anche l'incidente, esatto. Ecco, detto questo, i russi se ne sono andati perché l'Afghanistan costava, restare lì costava finanziariamente di più di quanto rendesse. E anche noi ce ne andremo, noi occidentali, gli americani già stanno preparando la ritirata, l'evacuazione del paese, e quindi lo faranno anche gli altri della NATO, perché stare lì costa troppo. E Obama ha deciso di rinunciare a vincere questa guerra nel 2010, quando ha detto: sì, mando i rinforzi, però ci ritireremo nel 2014, tutti ce ne andremo. Che è come se gli anglo-americani e i sovietici nel 1942, in piena guerra mondiale contro Giappone e Germania, avessero annunciato che comunque vada noi nel 44 smettiamo di fare la guerra. Cioè, è un assurdo, la guerra si finisce quando si è vinta o quando si è persa. Annunciare prima che ti ritirerai vuol dire al nemico che se resiste qualche anno ancora forse ce la può fare. Se la fa tirare avanti. Sentiamo Giovanna. Giovanna, buongiorno. Giovanna? Pronto? Ha messo giù il telefono e è caduta la linea. Allora, visto che si parla di convenienza, messo fra virgolette termini, per Luca Pucci Poppi, la guerra in Libia quanto ci è convenuta? Ti ricordi, si diceva, stiamo andando al seguito dei francesi, non c'entriamo niente, addirittura poi il presidente Berlusconi allora aveva appena ricevuto mesi prima Gheddafi con le tende, con l'odalisca e tutto, era in forte imbarazzo. Chi ha avuto ragione allora? Ma c'è stata una campagna di stampa all'inizio della, del nostro intervento in Libia, in cui si parlava di dissidi Italia-Francia, addirittura di guerra diplomatica fra Italia e Francia. Imposta alla Francia. Sì, di questa guerra ce ne siamo accorti solo noi, perché sulla stampa francese non c'era. È una cosa fatta completamente fatta in casa, e poi si diceva, adesso l'ENI verrà spodestata dal suo ruolo dominante. Gli affari, li faranno solo i francesi. No, pochi mesi fa, due mesi fa, il ministro francese responsabile per il commercio estero è andato in visita ufficiale in Libia, portandosi dietro nell'aereo tanti imprenditori francesi, una di quelle forme di diplomazia economica che i francesi sanno fare molto bene. È arrivato lì, è stato qualche giorno e è tornato a Parigi. Quanti contratti ha firmato? Zero. È stata sulla stampa francese considerata come un fallimento, il fallimento che è stato. Quindi il problema non è del povero ministro, ma di chi gli ha preparato la missione. E l'ENI è sempre lì, ha ragione Scaroni quando dice il gas i libici non lo possono vendere ai cinesi per dispetto, perché non c'è il tubo. Il tubo, cioè il gasdotto, va da Mellita a Gela, dalla Libia alla Sicilia. C'è un know-how, c'è un modo di lavorare insieme consolidato ormai da 40 anni, anzi da più di 40 anni. Queste cose non cambiano così semplicemente. Quindi in maniera molto pratica, se vuoi cinica, alla fine quell'intervento ci è convenuto? Ma probabilmente sì, sicuramente sì. Melog, la realtà condivisa. 800240024. Stiamo parlando di, facendo alcune riflessioni su alcuni nostri interventi, nostre presenze in zone di guerra, e stiamo vedendo che in realtà questo è un argomento poco conosciuto, perlomeno poco metabolizzato all'opinione pubblica, che molte volte si basa o su letture superficiali o sulle ondate emotive che accompagnano le campagne di stampa. Come ricordate, la guerra in Libia se ne parlò tanto, il dittatore Gheddafi, tutte le cose che facciano ridere e sorridere del nostro ossequio governativo nei confronti di Gheddafi, repentinamente cambiato. Ma oggi, come ci sta dicendo uno degli ospiti, Pierluca Pucci Poppi, è stata una guerra che ci permette, probabilmente ci ha permesso in parte, di avere le case riscaldate inverno, perché il gasodotto porta comunque tranquillamente il metano nel nostro paese. Sentiamo Ugo. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sì, io ho sentito dire da qualcuno, addirittura da qualche papà, cosa ci stiamo a fare lì. Io ritengo che lì stiamo intanto insieme a tutti gli altri e abbiamo il dovere di starci, perché facciamo parte delle alleanze. E poi credo che questi ragazzi, secondo me eccezionali, stiano mantenendo tutti insieme il terrorismo bloccato in una certa zona geografica, che perché altrimenti dilagherebbe nelle nostre case. Quindi io ritengo che sia fondamentale e ho il massimo rispetto per questi giovanotti. Rispetto comunque per chi si guadagna la vita rischiando la vita sul bloccare il terrorismo che potrebbe arrivare alle nostre latitudini, ho qualche lieve perplessità. Cosa ne pensa Gianandrea Gagliani? Ma io credo che il caso di Mohamed Merah a Tolosa pochi giorni fa ci dica che il terrorismo ci può colpire sempre e comunque. Però un dato credo che sia importante, facendo un cittadino, parte anche della... un cittadino francese a tutti gli effetti, sì, inconfondibile fra gli altri, capito? Sì, quindi la minaccia, e poi anche i report che ci sono ci dicono in tutta Europa che la minaccia jihadista, islamista in Europa, nell'Occidente, anche negli Stati Uniti rimane, però un dato di fatto c'è che conferma in parte quello che ha detto l'ascoltatore, e cioè che dopo l'11 settembre, che ha dato il via a queste operazioni, l'Afghanistan, poi l'Iraq, non ci sono più stati attacchi terroristici eclatanti su vasta scala di quelle dimensioni o simili, se escludiamo quelli del 2004 ad Atocha a Madrid e alla stazione Atocha di Madrid e poi a Londra. Però ecco, diciamo che rispetto a quello che erano le aspettative dopo l'11 settembre, il fatto di combattere Al-Qaeda, i talebani, di aver portato il fronte a casa loro, per semplificare, probabilmente ha concentrato il confronto militare e lo scontro là, e infatti la gran parte di moltissime cellule di terroristi, anche nordafricani, che si trovavano già in Nord Europa negli anni scorsi, sono stati poi mandati a combattere gli americani in Iraq o comunque sono rimasti anche in Afghanistan a dare una mano all'internazionale di Al-Qaeda che combatte al fianco dei talebani. Quindi probabilmente c'è un approccio di questo tipo che può avere anche un suo significato. Non credo che sulla lunga distanza possa darci delle sicurezze sul fatto che non siamo più attaccabili perché siamo presenti in Afghanistan. Sentiamo Cristiano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io chiamavo solo perché sono rimasto un po' amareggiato a sentire determinati commenti sui militari, su perché ci vanno, cosa ci andiamo a fare, eccetera. A me rammarica perché non c'è un vero rispetto verso questo corpo, verso questo importante corpo militare. Sì, però se in una percentuale abbiamo del paese c'è chi coltiva questa sensazione, è giusto dargli voce, come sì, no, adesso no, no, diamo questo, voce. No, no, beh, è giustissimo. No, io facevo il paragone, io non ho parenti diretti se non un cugino che, vivendo in Canada, facendo il militare in Canada, la sua missione in Afghanistan l'ha fatta, però l'abbiamo, o meglio, la percezione stessa che noi abbiamo di quello che lui ha fatto, per tutti quanti noi, italiani inclusi, voglio dire, è comunque una missione ad ampio respiro internazionale, per me è stato un onore che lui abbia potuto fare e l'abbia fatto, ecco. Purtroppo non vedo nei militari italiani questo, o meglio, nella maggior parte della popolazione non vedo questo rispetto e questo ringraziamento verso queste persone che comunque, al di là di una scelta di vita che è loro, che comporta sicuramente dei rischi, però comunque rischiare la vita per tutti quanti noi dovremmo essergliene prima di tutto grati, voglio dire. Lei dice non regge il ragionamento, dire, beh, lo vanno a fare per loro scelta. È una loro scelta, ma lo fanno per tutti quanti, voglio dire, non è che lo fanno solo esclusivamente per se stessi. È un servizio, comunque, sì, esatto. E giustamente non deve essere fatto, non siamo più nei periodi in cui era un obbligo, sono militare di professione, fare il militare è un mestiere come un altro, non come un altro, perché è un mestiere con particolari complessità e con una condizione di rischio elevata e consapevole, sì, soprattutto, però giustamente dice lei, meritano comunque rispetto. Sì, sicuramente sì, ed è quello che io cerco di insegnare ogni giorno di più anche a mia figlia, che comunque dobbiamo portargli un rispetto e dobbiamo considerarli in una maniera diversa e non semplicemente quelli che sono dietro una scrivania o che si lamentano se vanno via. No, è il loro mestiere, lo fanno con dedizione, a maggior ragione adesso che sono a tutti gli effetti completamente volontari in questo, però lo fanno per tutti noi, voglio dire, quindi dobbiamo... Vabbè, è chiaro il suo pensiero. Pierluca Pucciopoppi, soltanto una battuta, ma perché stai scrivendo un libro sull'Iran? Noi italiani rispetto a quel paese che rapporto abbiamo? Quale interesse abbiamo? Scusa, rapporti. La mia curiosità. Siamo ottimi rapporti commerciali ed economici da sempre, quindi prima con l'Iran dello Shah e poi con la teocrazia. Sto scrivendo perché è un paese magnifico, una storia bellissima e purtroppo in Italia di italiano c'è relativamente poca roba e molto per addetti ai lavori, se vogliamo. Il resto, i libri che abbiamo sull'Iran sono tradotti. Insomma, è una bella storia che va raccontata in maniera anche divertente. Ti aspetteremo per sapere quando ce la racconterai. Grazie mille. A Gianandrea Gagliani, sempre molto puntuale e molto informato. Ritorneremo presto su questo argomento, anche se molti non ne vorrebbero sentir parlare. A domani.